È un insieme di fattori che sono andati tutti quanti nella stessa direzione e che in qualche modo hanno influenzato una strategia, perché di questo si tratta, del governo italiano, ma non solo. Quali sono questi fattori? Sicuramente l'avvicinarsi della scadenza elettorale e quindi un inseguire purtroppo al ribasso quello che stiamo vedendo un po' in tutta Europa, posizionandosi in modo sempre più negativo nei confronti di una serie di temi e di categorie. Questo è il primo punto. Secondo punto, probabilmente la gran parte delle polemiche e i codici di condotta in particolare era anche una strategia diversiva per distrarre in qualche modo l'attenzione da quello che era il reale tema. Il reale tema era la costruzione di quello che poi abbiamo visto da metà luglio, agosto in poi, ovvero il blocco di fatto e la riconversione di chi prima si occupava di traffico di esseri umani verso l'esterno della Libia in blocco, in gestione e cogestione del blocco che di fatto invece in Libia c'è in questo momento. Quindi ecco, questo è l'insieme di fattori che probabilmente è alla base di quella strategia. E quindi sono gli stessi soggetti che prima gestivano il traffico e adesso il blocco? Ci sono sicuramente degli attori in Libia anche abbastanza importanti che hanno contribuito in passato a organizzare i trasferimenti in mare e che invece oggi si sono riconvertiti, ma questo non lo dico io, lo dicono anche il reportage giornalistici molto ben fatti, nell'attività opposta, ovvero vietare che le persone lascino la costa libica. Anche diciamo quando ai flussi era consentito, insomma ai barconi era consentito di partire, le condizioni dei migranti in Libia erano drammatiche, insomma i racconti di chi arriva qui parlano di storie veramente allucinanti. Ora, se possibile, è peggiorata la situazione? Ma è peggiorato per innanzitutto perché chi prima transitava per quei centri, che sono centri di dolore assoluto, comunque era un tempo precedente la possibilità di lasciare la Libia. Ora quello che succede invece è che le stesse persone, magari dopo aver pagato, perché di questo si tratta, pagano per uscire da quei centri, nella gran parte dei casi, e dopo aver subito violenze di tutti i tipi, rischiano di essere intercettati dalla Guardia Costiera, riportati indietro e finire in un altro centro, magari nello stesso centro in cui hanno già passato del tempo. Quindi come dire, si è sommata a una situazione che era già insostenibile prima il rischio che questo sia reiterato, che questo percorso, questo passaggio sia reiterato. Anche senza essere giuristi, appaiono delle violazioni insomma dei diritti umani da parte anche della condotta europea, degli stati europei. Non ci sono strumenti, come dire, anche giuridici per ripristinare il rispetto dei diritti umani? Ma è un tema di cui si discute molto anche oggi a Ferrara. Qua c'è tutto un tema che riguarda la criminalizzazione della solidarietà, che vuol dire anche questo, che vuol dire in qualche modo recuperare, cercare di difendere degli spazi di erosione del diritto, degli spazi dal punto di vista del diritto che stanno subendo una progressiva erosione. E questo è uno dei fenomeni più preoccupanti di questi tempi, accompagnati da una retorica che è una retorica micidiale, no? La retorica, pensiamo appunto al caso dell'ONG, alla retorica delle ONG agenti stranieri, nel nostro caso ONG anti-italiane, del fatto di essere fuori da un sistema. Questa retorica cosa fa alla fine della storia? Erode spazi, limita l'esercizio di diritti che sono diritti di cui possiamo beneficiare da decenni. Certamente una delle vie possibili è quella della difesa nelle sedi, come dire, istituzionali e legali, dal punto di vista internazionale intendo, ma comunque è molto preoccupante il clima, perché è un clima comunque che si nutre anche, no, di appunto di messaggi retorici e che crea, come dire, un humus che è sempre più fertile per far passare messaggi che l'altro ieri erano messaggi anti-ONG, poi ieri sono diventati messaggi anti-migranti, pensiamo ad esempio a come è stato raccontato lo sgombero di Piazza Indipendenza a Roma, e poi subito dopo sono diventati messaggi semplicemente razzisti, pensiamo a nei giorni successivi allo sgombero, a fine agosto, come è stata raccontata la vicenda triste di quella bimba che ha contratto la malaria in un ospedale italiano. È un modo raccapricciante, non solo c'è un tema di erosione di spazi di diritto, ma c'è anche un tema di abbassamento di difese dal punto di vista di come le cose vengono raccontate, no? Di accettazione di termini e di parole, di affermazioni che soltanto 6 mesi fa, un anno fa, sarebbero state del tutto inaccettabili e ora sono state sdoganate, e questo è gravissimo. Siete un'organizzazione che del sostegno della società civile, insomma, fa appunto la propria ragione anche di sussistenza. Che ruolo può avere la società civile e i cittadini in questa partita? C'è innanzitutto un primo tema, che è quello dell'informazione, che è un tema sempre più difficile perché anche gli attori dell'informazione in Italia hanno giocato un ruolo purtroppo non positivo nel corso di quest'estate. Bisogna quindi essere attenti a trovare i giusti canali di informazione e bisogna investire del tempo e delle energie per informarsi, e questo è oggi quanto mai indispensabile. Dopodiché mi sento di dire anche essere vicini a chi difende i diritti, essere vicini a chi esercita solidarietà, essere vicini alle organizzazioni che meritano vicinanza, essere sempre più attivi. È un momento in cui bisogna tenere la guardia molto alta.